Sono solo, perché se c'è lui, ragazzi, ma dai, fare ci vuole un burro un furgone. Ma sotto, ti chiamo, mi ci sono a casa Luceni, scendi o ti ho portato in campagna. E prima passa a farmi dare i soldi a questa cicciona. Grazie a tutti di Gozu, grazie di... ma... ti chiama, seguo di... passare il dai. Sì, fate il bruciato. Finito. Dai, sono andato a parlare. Ma se ho parlato io dovevo trovare. figlia? No. Però, eh? Ciao, io da quella sonda lì io non ho nessun interesse, non vedo voi. Io che mi vado a fare una luce per carica, ma io ci sentiamo più tardi. più pena. Fai il letto, provo il gioco, no? Faccio un po' male, faccio un po' male. Ma gracchiante, mi. Passate, ascoltavo meglio. Ebbene, forse Roberto la passa, Roberto. compagno mi ha fatto portare le lettere, un filo da 3 metri, mi ha tolto l'aria e portavo la lucidante. Andava. Ma è 0-0 però Robe. 0-0 ma le ha tolto un gol il portiere allucinante, da 3 metri e la schiacciata e l'Aimovic ha fatto un gol e l'ha tirata fuori. Beh, un Robert è la portante, via. Come parla Robert deve essere la portante. Usiamo. Non ce la fa passare. Quanto è la teggia? Ma ce l'ho visto imballato io. La cosa magista che non ho mai capito. Tutto quello che dice, ormai lo fate voi. faccia da lei. 9 più 30. Era qua e basta, la metto la passi tranquillamente. Tranquillamente la passi. Adesso c'è il Claudio Sparviero, stamattina non l'ha portata, c'è. Mi sembra imbecille, no? Termina stanotte all'1:20. E allora, chi l'altra la metà giovane? Ieri notte. Ma che cosa? Thank you. ho fatto carica e adesso sono a posto fino a quando si chiude. Sì, che si viene a mirare, viene a rumare. titolando, ci ha detto. E niente. E io l'ho detto, ascolta, io ho visto Fiorentina, mica ho visto il prezzo, anche perché non mi interessava il prezzo perché sapevo che dovevo pagare tu. Non è accordatore, non confondere, qual è accordatore? quello. Ah, hai visto, ho preso e pagato, ho preso la mandata, ha dato due rigori alla Juventus, c'era 45 giorni. Adesso dobbiamo raccolare un po' di milioni, e quindi ha vinto di nuovo la Juve. Sì, la Bava sarà. Nel fuori perché domani si scapperà per la Juve. E fai così, prova così. Ale. Oh, non c'è microfono. Frequenza. No, questo non dritta, ho provato andrà bene, andrà bene. Cosa c'hai? Tutto l'alimentatore suo, tutto quanto c'hai, non solo l'apparato c'hai. Mario, c'è solo l'apparato io c'ho l'apparato, il microfono, basta, non c'ho altro. Ti ho detto solo di alimentazione, tutto iaegio, tutto originale, c'ho l'alimentatore, non ero io, e l'ho comprato così. Guardate una roba di là, capito, ma l'ho fatto avere un anino di sorso. Ho preso anche una barca di sciulli, però ce l'ho già un bel po' di anni, funzionante, perfetto, lo accendo sempre. È acceso anche stasera, diciamo, eh? Ah, sì. C'è il computer acceso. C'è il computer acceso, mi disturba. Comunque è sempre acceso. Abbiamo sentito l'eccezione. Quando ci troviamo ti faccio vedere se trovo quella denuncia. Intanto la devo cercare per tenere fuori tutti quanti la documentazione della stazione. Se mi capita domani quando ci vediamo ti faccio vedere la denuncia che ho io in questura. E c'è quello lì, scommetto. Interesse. Ibrahimovic, segnato. Segnato. Espulso. Ah, in 10 siamo. Bobo. Buona il lume, mi. Ti curai, grazie, avevo di paga. L'hanno pure espulso, visto? Chi troppo vuole non la stringe. L'hanno espulso. Ehi, chi è che l'ha espulso? Ibrahimovic. No, sto guardando la partita. Che aveva detto? Oddio. Hanno ammonito, guarda. Gli ha fatto bene ammonito, è troppo aggressivo. Lì ce l'ha giù. Questo Luca, l'ha rovinato con l'Inter. Ma che l'ha fatto? Luca Flip. Ma già è giù. Che paga 4, sì, capisco, lo fa una forza, cosa mi ha fatto di la M? fatto per andare in banda laterale, sono costruiti per la banda laterale. Tu immaginati che il 920, l'effettino per 20, io la schiena dell'M non glielo fatta neanche mettere, capito? Perché costava 500 euro in più e non mi serve niente, perché lei è un cesso, non va bene, capito? Non va bene. E quindi non glielo fatto mettere, tanto è vero che tu vai in M nel mio, allora eccolo qua. In AM e in HF, ok? Nelle altre parti non ci va nulla. Tu vai in 27, giri, frequenza entro 27, arrivato a... ti dà tutte le frequenze, 27 tutto, no? Poi schiaccia AM e ti scrive error, capito? Ma di ti scrive error come il coso, perché non ne frega niente a quella radio di fare attività in AM. Cosa 10-2000? 10-2000 è AM, anda blu. No, sono fatti per la banda laterale, poi già il 10.000 è un computer, cosa? La M è brava, ma macchina, la DSP va su di lui, questa roba che serve per la banda laterale, non per la M. No, la gente ti sa credere che tutte le radio, tipo quella che ha detto poc'anzi, cioè, non dico, ma è l'unica radio che io sono riuscito un po' a trasmettere il 735, che è della categoria del 140, così piccolino, insomma, con una parte ancora più piccolina. Ma ci ha dato questa radio che era una grandissima gaggata, proprio di brutto, capito? In banda laterale era una scheggia, tirava fuori quasi 200 watt. In AM ci aveva 40 watt e dovevi usarne 10 perché se superavi 10 watt andava a picchi negativi. Quindi immaginati tu, capito? Non serve a niente con le radio, Luca. Dillo tranquillamente, hai toccato con le radio, non serve a niente. Se vuoi avere una bella radio per fare ascolto, per fare attività, per andartene a fare il pirata, sono problemi tuoi. Però usa la banda laterale, se lo usi in AM, lo prendi e ce lo butti alla finestra, come ho fatto io, perché non serve a niente. Dopo 50 è una signora radio, so che io l'avevo presa per fare attività in... in AM il 440 usarlo per fare altro e invece non è andata bene. L'ho preso e l'ho rimandato indietro. Ma me ne ha tutti nulla, voi già me ne ha tutti. Adesso qua andando in fiera, poi vediamo che cosa prendere. E che fa? Poi lì tu dai una pezzi panino con l'Iswam, ma non sono radio per andare in AM quelle lì. Ah, ma esiste, io posso parlare tranquillamente del radio, no? Non c'è nessuno a me che mi possa insegnare l'uso di questo tipo di apparecchiature. Io le ho provate tutte. E sono sempre tornato a questa vecchia radio che è l'unica che mi può dare accesso alla banda cittadina. Le altre non servono a niente, proprio completamente zero, sotto zero. Avanti, vabbè. Stavo ascoltando Claudio, no? Quindi questi apparati HF di 7 non servono a niente per quel tipo di modulazione e non esistono neanche le possibilità di modificarli, quindi. Non esistono, perché sono apparecchiature, l'HF è praticamente è chiamato così HF, perché trasmette in banda amatoriale, no? Quindi sono apparecchiature che sono state selezionate e fatte esclusivamente per parlare in SSB, ok? Quindi quelle radio vanno bene in banda laterale, quindi in SSB. Quando tu usi in AM, sono radio che non vanno bene. Non vanno bene per il semplice fatto che hanno il modulatore fatto per poter trasmettere in banda laterale. Non ci sono altre cose, modifiche non ce n'è, capito? A meno che l'unica radio che va bene in AM sono i tre apparati cable, vecchi che sono rimasti ancora in circolazione. E quelli che tu vedi su eBay che ci buttano al 430, che è più alto del 450, figura più 430, che io l'ho usato, è stata la mia prima radio nel 1986, è salita a 356 euro. Il 450 è a 372, quindi tu immagini una radio del 1980, vabbè, perché la prima radio che ha fatto a sintonia continua, la chiave è stata a 430, a sintonia continua. Perciò tu immagini che per 20 euro di differenza c'è gente che sta buttando al 430 e non al 450, perché sono CB e gente che segue lui per cercare HF tipo 430, 440, 140. pianeta, il termos. Nessuno lo può usare, tutti lo usano, non te la fotti nulla, però dico, è l'unica radio che ti permette di uscire bene 27. Le altre radio non servono a niente. Ho preso quello grosso grosso che c'è a sinistra in alto su Flavia. Sono tutte le telefono, beh, non servono a niente, io quelle radio ce l'ho per fare il radioamatore, te l'ho già spiegato, io faccio il radioamatore con quelle radio, però se tu vieni a casa mia, ti siedi qua vicino a me, sono tutte radio che stanno trasmettendo in in bande diverse, non sono il 27, non sono sul canale 10, sono i 40 metri, 40 metri, 80 metri, in una 20 metri, sono tutte radio che stanno trasmettendo, ricevendo in HF, quindi bande amatoriali, non hanno niente a che fare con la 27, la 27 è una banda cittadina che parte dal 26965, il cosiddetto canale 1, al 27405. Tutto quello che c'è dopo, non te la fotti lunga, quelle sono le frequenze dove trasmettere la radio. E ci sono radio che non trasmetto, perché non vanno bene. Ma il discorso suo è chiarissimo, però quello che forse vuol dire quel tipo, che sicuramente vale meglio di un baracchino normale, cioè con l'apparato lì, a livello di selettività, di cose, di segnali, di studio, eccetera, eccetera. Ma non me ne frega a me, vabbè, quando io non prendo il splatter, non c'è un segnale selettivo. Facciamo parlare agli altri, chi c'è Mario, sei rimasto? E chi ce l'ha se ne tiene quella in radio, perché singola anche bene in banda laterale, sicuro. Ma il radio faccio attività in 10 metri, cioè in 28, con 440, è un'antenna verticale, c'è la mantova, io mi sposto da qui e me ne vado in 10 metri in banda amatoriale, trasmetto come sto trasmettendo qua, né più né meno, perché l'apparato mi permette di fare questo. Capito? Se tu vai a fare un altro apparato, ma neanche cagando ti sento. E perché no? Sì, io lo capisco. Anche se a me piacciono quelli a valvola, non è per le CCD. Ma stiamo parlando di un altro cane che sta lì. Anch'io ci vado in 40 metri con 902 DM, ci andavo tempo fa con la linea Uniren. Ma è chiaro che sono apparati passati. Anzi, a quanto stai a guardare le valvole? Il massimo picco di modulazione di potenza, accendo la 920, giro la tonnella, schiaccio la corretta automatico, pronto, io scenderò da là, e stai parlando, grazie, vuole un quarto d'ora prima di entrare, e se devi metterti a parlare e parli, però se ho pazienza come me, io trasmetto con quelle radio, perché mi piace trasmettere, a qualcuno non ne va più, qualcuno vuole tutto il mondo sotto controllo, a me non me la fotte nulla degli altri. Io le radio antiche, le radio belle come quelle, mi piace vederle, mi ha malato, perché ho dato una linea Bri che la prima l'ha vista, era lunga 2 metri, come apparecchiatura, c'erano 4 piedi. L'ho rotta perché è un'apparecchiatura troppo complicata non da usare, perché l'ho sempre usata, ma dico, molto molto sensibile, la tenevi spenta per dire un mese, ci le valvole vanno in stand-by, non mantengono più la potenza, quindi devi cambiare le valvole, non le trovi, un casino. Quindi niente, quelle che io mi sono rimaste, hanno tutti lo stadio finale transito, capito? Quindi sono dei valvolari, sono tutte transistorizzate. Ma la ricezione è un altro pianeta qua. Ma le valvole è transistor su di mezzo al mare. Lo so, forse tu sei l'unico che ha visto le differenze. Roberto è venuto qua a 10 minuti perché eravamo in fretta a prendere della roba e poi siamo andati via. Però una sera che lui ha del tempo, viene qua, si siede, io le faccio vedere le mie apparecchiature, le differenze tra il digitale e non digitale, il DSP e non DSP, il valvolare, lo stadio finale a valvole, quello transistorizzato, le faccio sentire la ricezione di quel 7B che si rimane a Duke, le malattie di HD incorporato con mille filtri e mille palle. Cioè, ci sono queste differenze che bisogna fare. Io ho il digitale, ho l'analogico, ho il semidigitale, ne ho che non sono digitali. Lui è bello, provarli tutti e vedere bene le differenze e sapere di cosa uno veramente, che macchina c'ha in mano. Io ho venuto a 180 nel tuo affiato all'Alghero, a mio carissimo amico. comprensione necessaria che serve, perché aprire un computer che ringraziare un accordatore con un olio speciale che rendono appositamente per l'accordatore e non farlo ingrippare, non è che ci vuole lo studio o la laurea. Quando tu senti che la macchina è rumorosa, la porti al meccanico. Siccome l'uso dell'apparato lo stai usando tu, chiaramente la meccanica è la tua, ma se senti che l'ingranaggio dell'accordatore è rumoroso, lo apri e metti un pochino di olio Singer, oppure olio di quello che la Kenwood vende in dotazione alle radio, l'apparato torna come prima, non lo senti più l'accordatore. Che come gentesimo la ricca, la gallina di Giobbettino che ha dovuto la legna a gas in cortile. Antonio. io. Guarda, ho ereditato un po' di soldi da miei soci e tutti in radio me li sto mangiando. Dimmi una cosa, ma tu con l'omologativo che c'ha lui sei in condizione di risolvere? risalire alla persona? Certamente che sì, io l'ho già visto. Ma esiste un albo, come fate? È aperto a tutti questo albo dei cooperativi? No, sono radioamatori. Tutti dicono, tutti radioamatori, se io dico sono radioamatore, c'ho il nominativo che me l'ha segnato, posso sapere il nome della persona, dove abita, eccetera, eccetera. Ma è su corredetta.com, lo trovi se c'è il nominativo. Sì, ma c'è una password per entrare, come si fa? Perché tu non c'hai il nominativo, io ci posso entrare perché c'ho il mio nominativo. E quindi di questo teoricamente tu basta che entri su questo sito, riesci a sapere dove abita, eventualmente anche il numero del telefono. Io c'ho tutto, non ti preoccupare, tutto sotto controllo, non ti posso dire altro qua. Oh, no, dico, naturalmente si poteva mai provare a chiamare per dirgli solo visto che non ti ha risposto. Ma no, non è il numero del telefono, c'è solo l'indirizzo, basta. Dov'è lui? Vabbè, non te lo posso dire qua, ma la mia non mi deve fare la bella lì. Oh, no, dico, non c'è scritto sui miei zona di provenienza. No, non ho guardato. Aggiornando le risultanze. Io c'ho la sera sul digitale. Oggi del Piero, ogni cosa ha fatto. Yeah. deve chiudere bene la Juve, perché se fa tre colpi alle facce è fottita, eh. Vista, vai vista. Mamma mia, la vista, io non ho compreso un valore. Tu lo tieni prima, io sono a nullo, tutto lì, giusto, però non lo stavo guardando, niente, sto ascoltando solamente quello che riferite voi. Tappa tappa, oh signore, io adesso vado in corretti perché mi sono aguantando. Aspetta Lassa, non la senti Lassa tu, così ti diamo il risultato subito. Guarda, sono due giorni stamattina, presto presto. Ieri la stessa cosa, non ho avuto tempo di recupero. Cappa. Buon QRT, buon tutto, ce la riascoltiamo. Alle prossime, ciao. Ciao Claudio, controlla quella roba, se c'è tempo sono fregatene Claudio, capito? Beh Claudio, stai visto? No, non lo so. Sì, aspetta un attimo se rientra. Monitor lì. Modifico bancario, c'è scritto. Non lo so, Ah sì, l'ho spento perché altrimenti io ho 30 ore, capito? Ho 30 ore di navigazione al mese, se accendo adesso arrivando a luna c'ho 4 ore, mi brucio troppe ore e quindi lo accendo verso mezzanotte e mezza, intanto finisce a luna e 20. Guarda, adesso che c'è più pratico, no? Che cosa devo fare? Sì, ho capito, però se lui magari... nome, che era? Ah sì, certo. Ah, KK, gli avete dato la possibilità di prenderlo più alto, tutto lì. Beh, ma mancano due nove, Mario, sono questi cazzo di mappioni che stanno fino a tardi, capito? Si aggiudicano le altre così. A Gianni gliel'ha fottuto uno per un euro, capito? Finiva a mezzanotte e mezza. Era a mezzanotte e 20, Gianni, c'è sul computer e c'era già questo pronto a rilanciare, gliel'ha fottuto per un euro. KK, però secondo me lasciatemi aspettare, perché se c'era qualche altra offerta senza essere Luca, per dire, si trovava sempre di quella maniera lì, o ci aveva rinunciato oppure niente. Invece così, con l'offerta sua, siccome sempre un'altra persona risulta, tutto lì. E via. Sì, su quello lì sono d'accordo, però io quello che stavo dicendo ieri è un'altra cosa, che se non c'era stato nessun altro a rilanciare, il prezzo sarebbe rimasto sempre fermo lì a 77, 78 che era, adesso non me lo ricordo. Siccome tu, essendo un altro, ogni volta che cliccavi rilanciato, ti diceva che sempre superiore l'altra offerta, perché giustamente c'era quello di Claudio fino a 100, capito? E tu l'hai portato oltre 100 facendo così. Beh, sì, ma guarda, non è attivo, è di Catania, mi pare, dov'è? Boh, di Agrigento. È un animatore. No, ma è vero, perché c'è anche il nome attivo su coso lì. Perché mi stava creando un problema, infatti a volte mi dice, no, per quella radio. Cioè, cosa ripeti? Mi hanno anche superato. A 101 euro sono arrivati. E tu vuoi che rimane lì a 52, gli avremmo fatto l'affare. A 101, adesso Luca ha messo 110 e vediamo se ce la giudica così, se no molla. Siamo andati a un messaggio a Luca. Ah, ma non si può faccio il lavoro, passo a Roberto e poi quando rientri tu te riporto, non è un problema quello. Allora, gappa cosa stavo dicendo? Vabbè, io poi domani mattina faccio il mio a Fertilia, non c'è bisogno di farlo da qua, no? Va bene anche farlo a Fertilia. E lo farò porti più domani, quello a 230 euro. Cosa c'è bisogno di farlo qua, no? Lo rifarò per portare la cassa lì. Sì. Sono una carta del suo nome e cognome, così. E poi mi pare ci voglia il mio numero di documento e basta. Ci ascoltiamo domani. Ciao, ciao.